Un, due, tre, un, due. Se noi fossimo ancora in tempo per vivere uniti come dici tu, e se noi poi non fossimo ancora lontani, distanti, vissuti così. Mi dicevi che non t'ho capito, che non so guardare al di fuori di me. È tardi, la musica è andata e tu hai deciso, deciso per me. Passa la vita e cambia ogni cosa, resta il dolore e la voglia di te. Resta solo quel tuo letto vuoto, una foto ingiallita, un biglietto d'auguri, quella dedica sotto il tuo viso, mi dice parole che non provi più. E passa la vita e cambia ogni cosa, resta il dolore e la voglia di te. Passa la vita e cambia ogni cosa, resta il dolore e la voglia di te. Serve più fare il bastardo, cercare una donna solo per una sera. Non serve affogare il rancore dentro quel bicchiere che non basterà. E poi rinchiudersi e piangere sangue, gridare il tuo nome per sentirmi vivo, e incazzarsi con un amico sperando che almeno ti sfogherai. Passa la vita e cambia ogni cosa, resta il dolore e la voglia di te. Passa la vita e cambia ogni cosa, resta il dolore e la voglia di te. Resta il dolore e la voglia di te. Resta il dolore e la voglia.